Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Siamo in diretta, come annunciavano i nostri GR, dal Lingotto di Torino, dove è iniziata circa due ore fa la due giorni della piccola industria di Confindustria. Come anticipavamo nei giorni scorsi, molti temi e li tratteremo nel corso del programma, ma soprattutto confermato il grido d'allarme delle imprese, soprattutto delle piccole imprese, su cui questa crisi si sta scaricando più che in altri settori della nostra economia. Poi parleremo anche degli altri temi di questo programma, a partire dalla borsa, oggi negativa di 1,5%, ma perde 1,5% anche Parigi, perde l'1,80 a dire il vero Francoforte. Molto bene Telecom dopo le notizie uscite ieri dal Consiglio di Amministrazione, anche se c'è più di una polemica sull'ipotesi che, diciamo, la tutta Telecom Italia, separata dalla rete, diventi a controllo cinese. Il titolo guadagna il 4,24%, male invece le banche e soprattutto Mediaset, che molto era cresciuta ieri, meno 5% Mediaset, meno 4% il Banco Popolare, meno 3,70% Ubibanca, meno 3,60%. Il titolo Fiat, Tenaris meno 3,30, Pirelli meno 3,20 e ST Microelectronics meno 2,80%. Per quello che riguarda invece l'euro sul dollaro, il rapporto di cambio è stabile a quota 1,31 e 1 in questo momento. 349-238-6666 come sempre il numero per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook per scrivere al programma. Parleremo dei temi dei piccoli industriali, degli industriali in generale, ma anche di Cipro, la situazione si è infatti complicata, e poi anche di quello che i 10 saggi famosi hanno oggi dichiarato, perché hanno definito il lavoro come emergenza chiave, serve uno sviluppo equo, e hanno sottolineato che la percentuale di persone a rischio povertà, nel presentare il loro atto conclusivo al Presidente della Repubblica, dicevo, la percentuale delle persone a rischio povertà o esclusione è salita in Italia di 4 punti percentuali in un anno, è rimasta stabile al 25% tra il 2005 e il 2010 ed è salita al 28% tra il 2010 e il 2011, e quindi 4 punti percentuali in un solo anno. Altre le riflessioni sviluppate dai saggi nel documento presentato al Presidente della Repubblica. Però adesso, invece che smontiamo leggermente il programma, poi avremo le notizie in breve e anche le notizie sugli sprechi delle nostre regioni, dei nostri enti locali, vorrei subito partire con i temi toccati da questo inizio della due giorni di Confindustria, e quindi anche da quello che è stato l'intervento del Presidente della Piccola Industria e Confindustria, Vincenzo Boccia. Due parole, tempo scaduto, con le quali abbiamo voluto sintetizzare la denuncia e la rabbia. I dati del nostro centro studi confermano che siamo come in un'economia di guerra, nel mezzo di una situazione che non permette di vedere macerie materiali, ma che al pari dell'essere in guerra comporta danni terribilmente rilevanti. E la situazione si aggrava sempre di più. Per noi imprenditori, vedere una fabbrica che chiude è come avere un lutto in famiglia, perché sappiamo cosa significa per la comunità, per i lavoratori, per il paese, e conosciamo bene, quando chiude una fabbrica, quali siano i danni per il futuro. Di fronte all'evidenza dei numeri, a una situazione di forte emergenza economica e al suo incessante protrarsi, alle molte imprese che hanno chiuso i battenti, ai tanti imprenditori e lavoratori che non hanno più le loro imprese, per quanti ce l'hanno fatta, per chi nonostante tutto continua a resistere con sforzi immani e per i tanti imprenditori che tentano ancora di reagire, vi chiedo di alzarci in piedi e osservare un minuto di silenzio. Questo è un silenzio di denuncia. Questo è un silenzio di denuncia per chi non ascolta, per chi non reagisce, per chi non interviene e non ha la consapevolezza della situazione di emergenza in cui versa lo stato dell'economia reale del nostro Paese. Per chi non ha ancora compreso che dobbiamo salvare il Paese. Vi abbiamo fatto ascoltare quello che è stato sostanzialmente l'inizio dell'intervento del Presidente della Piccola Industria e Confindustria, Vincenzo Boccia, nostro ospite ieri in diretta, e come in qualche modo anticipato è una Confindustria di protesta, l'ha detto lo stesso Boccia, oggi a Torino presentiamo una Confindustria di protesta che rappresenta un paese a pezzi, questa è stata la prima frase di Boccia nel suo intervento, di un'economia di guerra, avete sentito, di tempo è scaduto, è una Confindustria che lancia un grido di rabbia e di speranza perché è possibile scegliere uscire dalla crisi, rabbia perché queste scelte non si stanno attuando. Vorrei tenere assieme quella che è stata la relazione dei 10 saggi del Presidente della Repubblica con una Confindustria di protesta di un paese a pezzi, con il direttore generale di Confindustria, già nostro ospite in alcune occasioni, dottoressa Panucci, buonasera innanzitutto. Buonasera. Come stanno assieme? Perché insomma, vedere i piccoli arrabbiati l'abbiamo già visto negli anni passati, ci sono vari momenti, ma un'intera Confindustria mobilitata a una protesta per un paese a pezzi con un grido di rabbia, come si tiene assieme con quanto, devo dire in maniera un po' più paludata ma molto netta, i 10 saggi hanno riferito oggi al Presidente della Repubblica: povertà in aumento, rischio di disoccupazione, difficoltà anche se si va avanti così nella tenuta sociale del paese. Io vedo una convergenza nell'analisi, nelle soluzioni. C'è evidentemente una differenza di toni, ma è una differenza anche di ruolo. I saggi hanno fotografato, così come ha fatto Enzo Boccia nel suo intervento, una situazione di forte disagio e di grave emergenza economica e sociale, e hanno delineato una serie di proposte che confesso di aver letto con molta rapidità, quindi con tutti i limiti del caso, che mi sembra siano in linea con le proposte che noi abbiamo presentato già alcune settimane fa e che pongono l'accento su un'esigenza di rilanciare la crescita puntando su alcuni punti chiave, in particolare fisco, lavoro, a sostegno agli investimenti, in innovazione e ricerca, sostegno all'internazionalizzazione, riforme istituzionali e in particolare per quel che ci riguarda la riforma del titolo quinto della Costituzione. Tutti temi che ritrovo nelle due relazioni dei saggi. La situazione, allora, la difficoltà e il tempo scaduto valevano anche 2-3 mesi fa, nel senso che la necessità di interventi urgenti voi la ponevate anche 2-3 mesi fa. La mia impressione però è che vi sia stata un'accelerazione, mettiamola così, nella vostra esasperazione. Poi vedremo domani quale proposta arriverà da parte del Presidente di Confindustria Squinzi ai tre leader sindacali presenti, già in qualche modo anticipato il fatto che questa proposta arriverà. Però al di là di questo, mi sembra che vi sia stata un'accelerazione nell'esasperazione. Parlo anche della campagna sui giornali dal titolo appunto tempo scaduto. Sono i dati congiunturali che pure sono in peggioramento, o è la sensazione che l'immobilismo prosegua e quindi non vedere nessun tipo di sbocco, più una sensazione diciamo di prospettiva? Sono più cose messe insieme. Noi alcuni mesi fa lanciavamo già un allarme, ma avevamo la speranza di vedere un governo stabile uscire dalla competizione elettorale. Questo purtroppo non è accaduto e quindi al peggioramento congiunturale si unisce un'impasse politica che va necessariamente affrontata. Siamo già a quasi 2 mesi dalle elezioni e non abbiamo ancora un esito governativo né una prospettiva che ci dia certezze sulla governabilità del Paese. L'indicazione dal punto di vista politico che è arrivata molto chiara è: non c'è tempo per andare ad elezioni, e quindi voi chiedete sostanzialmente un governo che agisca subito, al di là dei crediti che vantano le imprese, su cui abbiamo visto anche le sue dichiarazioni, il meccanismo è un po' bizantino, un po' complicato, rischia di allungare i tempi, ma uno sforzo c'è stato. Quali sono gli altri interventi urgenti che dovrebbe fare un governo se si insediasse domani, per esempio? Guardi, sui crediti vorrei tornarci, sì, perché io penso sia un provvedimento molto importante. È un primo passo, anche se non rispondente pienamente a quello che noi chiedevamo, sia quantitativamente sia qualitativamente. Però è un primo passo importante. Adesso la nostra forte richiesta alle forze politiche e al Parlamento è di procedere molto rapidamente con la conversione. Questo per evitare che ci siano blocchi nell'operatività del decreto e quindi nella procedura di liquidazione. Poi ci sono alcune modifiche necessarie che segnaleremo al Parlamento nel corso della nostra prossima audizione e che ci auguriamo vengano fatte. Ci sono altre misure molto importanti. Io mi rifaccio al nostro progetto presentato a gennaio, perché quel progetto conteneva una parte di terapia d'urto con misure precise, descritte e quantificate, che potrebbero essere adottate anche in questa fase. Sono misure di emergenza che puntano a ridurre il costo del lavoro agendo sul cuneo fiscale, ad utilizzare la leva fiscale per favorire la liquidità delle imprese, quindi la finanza, ma anche gli investimenti in ricerca e innovazione, in tecnologie, gli investimenti infrastrutturali e nel settore delle costruzioni. Quindi tutte misure che potrebbero essere adottate se ci fosse una volontà politica a farlo. Ecco, visto che abbiamo ricordato ieri come Emma Marcegaglia, il past president di Confindustria, sia stata nominata prima volta per una donna italiana e dai tempi, secondo me, se non ricordo male, di Guido Carli, secondo italiano quindi, a guidare la Confindustria europea. Dicevo, per gli investimenti infrastrutturali, per politiche forti di investimento, serve un via libera europeo, l'abbiamo visto anche con il rimborso o il pagamento dei debiti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti delle imprese italiane. Ecco, voi vi immaginate anche un'azione più forte a livello europeo? Qui c'è un vantaggio paradossalmente per l'Italia, anche la Francia inizia a avere molti problemi, è molto preoccupata da un deficit fuori controllo e ha chiesto più tempo. Ora, se l'Italia e la Francia si mettessero assieme, forse l'orientamento europeo potrebbe cambiare. Sicuramente sarebbe un'azione che dovremmo svolgere in maniera forte e decisa. E una diversa politica europea per favorire gli investimenti e soprattutto gli investimenti infrastrutturali dei singoli Paesi membri sarebbe necessaria e farebbe da volano alla crescita, alla ripresa economica. Il fatto che altri paesi si trovino in condizioni similari a quelle dell'Italia, in particolare i grandi paesi, può essere sicuramente d'aiuto. Un'azione forte d'Italia e Francia su questi temi sarebbe importante. Noi pensiamo sia necessario farla, però pensiamo anche che sia necessario che al nostro interno, a livello italiano, si stimolino gli investimenti attraverso delle politiche che è già possibile fare. Noi quando è stato approvato il decreto sviluppo 2, crescita 2, avevamo puntato molto sul credito d'imposta per gli investimenti, chiedendo una riduzione del tetto di spesa previsto per l'applicazione del credito d'imposta. Questo purtroppo non è avvenuto per un atteggiamento molto rigoroso e questo, ahimè, determinerà la quasi inoperatività della norma. Quindi si può fare molto a livello europeo, si può fare anche qualcosa a livello italiano. Un'ultima domanda: abbiamo visto arrivare in sala il ministro Passera, però diciamo un ministro non partecipante, se ascolterà i lavori dell'Assemblea forse farà una dichiarazione fuori programma, ma voi non avete invitato esponenti del governo per un motivo preciso? Io mi ricordo 2 anni fa la polemica dei giovani di Confindustria a Capri, oppure diciamo, vi attendevate che vi fosse un governo e quindi siete rimasti spiazzati dall'assenza di un governo in carica e non, diciamo, che deve sbrigare la normale amministrazione. Noi stiamo lanciando un messaggio a tutti, governo in carica, governo che ci sarà e tutte le forze politiche, quindi non c'è una motivazione particolare, ma il nostro convegno si rivolge a tutti, a chi vorrà cogliere i messaggi che lanceremo e le misure che chiederemo che vengano attuate. In bocca al lupo e buon lavoro, grazie dottoressa Pomucci, direttore generale della Confindustria. Noi restiamo sui temi economici oggi toccati, anche perché dell'economia italiana e di quello che è un'austerità che porta da nessuna parte, ha parlato anche il premio Nobel dell'economia Joseph Stiglitz, mentre dopo l'intervento del presidente della piccola industria Confindustria Vincenzo Boccia, il capo del centro studi di Confindustria Luca Paolazzi ha esposto con dei grafici che purtroppo in radio è impossibile mostrare, ma molto belli, quanto drammatica sia la situazione a livello storico, cioè partendo dai dati storici di fine 800, di questa recessione e stagnazione prima e recessione poi dell'economia italiana. Sentiamo però intanto Joseph Stiglitz, raggiunto dal nostro Mario Platero, a cui Platero ha chiesto in primo luogo quanto fosse preoccupato per il nostro paese a causa della mancanza di un governo. It is necessary in any democracy for there to be compromise. In ogni democrazia il compromesso è necessario. Le persone hanno prospettive e visioni diverse e devono trovare un punto comune e lavorare insieme. Spero che l'Europa cambi le sue politiche di austerità e che si renda conto che per far funzionare l'euro occorrono un'unione bancaria, risoluzioni comuni, un'assicurazione comune sui depositi, una supervisione comune e una maggiore unione fiscale. Credo inoltre che sarebbe positivo se ci fossero emissioni di eurobond. Penso che la prospettiva avanzata da più parti, ossia abbandonare l'euro per salvare l'Europa, sia preoccupante. Sarebbe invece molto meglio attuare riforme più profonde. L'Italia ha bisogno di una politica industriale. It would be preferable, obviously, to make the deeper reforms. You need to have industrial policies. Così appunto il premio Nobel dell'economia Joseph Stiglitz, che ha detto tra l'altro la politica dell'austerità non ha mai portato da nessuna parte e non porterà da nessuna parte anche l'Europa. Luca Paolazzi, buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Qui nei nostri studi, se sei d'accordo farei sentire il ministro Passera, che appunto fuori programma è appena salito sul palco, e poi invece commentiamo i dati che tu oggi hai illustrato. Previsti nella vita, perché se mi avessero detto 17 mesi fa che avrei lasciato tutto per fare il ministro dello sviluppo e delle infrastrutture, avrei detto che era molto improbabile, ma poi è successo e sono felice di averlo fatto e di essermi messo al servizio. Durante quest'anno abbiamo veramente lavorato tanto insieme e molte delle cose buone che siamo riusciti a fare sono venute di stimolo da qua, e quindi mi sembra doveroso rispondere alle domande di Vincenzo Boccia, che sul finire del suo bellissimo intervento ha fatto in generale alla politica. Condivido, ma ve lo dico non per retorica, perché da tanti anni ci vediamo e con tanti di voi ci conosciamo personalmente, condivido l'insofferenza, condivido l'indignazione che viene fuori dagli interventi che abbiamo sentito anche oggi per tempi della politica che non hanno più nulla a che fare con i tempi dell'economia e dell'impresa. Per la mancanza di voglia di parlare di visione, di progetto del Paese, come invece Boccia oggi ha fatto, con quella passione che è necessario, perché sennò le montagne non si spostano e noi oggi dobbiamo tutti insieme spostare delle montagne. Che la situazione sia difficile è verissimo, e giustamente Confindustria in tutte le occasioni e alzando anche il tono negli ultimi tempi denuncia questa situazione, che sappiamo essere figlia di almeno 20 anni di non scelte, di scelte inadeguate, di responsabilità molto molto diffuse. Di fronte a questa situazione genericamente, generalmente, nel suo complesso molto, molto pericolosa e rischiosa, ce l'hanno dimostrato anche i 3 imprenditori poco fa, c'è un'Italia che dimostratamente ce la fa, perché se l'Italia non fosse più che competitiva non avremmo quasi 500 miliardi di esportazione. Ecco, queste cose ogni tanto ce le dimentichiamo e devono essere messe a compensazione dei tanti problemi che abbiamo, che sono però tutti veri. Lo dico soltanto non per negare il problema, ma per dire che al nostro interno abbiamo la ricetta, abbiamo la soluzione, l'abbiamo già dimostrato. Se non avessimo quei quasi 500 miliardi di esportazione, saremmo ancora più preoccupati, perché vorrebbe dire che complessivamente non ce la facciamo. Invece noi sappiamo che su mercati estremamente competitivi noi ci siamo, e la possibilità di crescere e la dimostrata capacità di crescere anche nei momenti di maggiore difficoltà ne è di ulteriore conforto. Secolo asiatico, quello che abbiamo davanti a noi? Probabilmente sì, ma per noi, se lo sapremo dimostrare come lo stanno dimostrando quelle aziende che fanno i 500 miliardi di esportazione e tutte le filiere che ci sono dietro, perché certe volte si parla di quell'attività come se fosse capacità soltanto dell'azienda leader che si porta dietro tutte le altre. Ci sono dietro, lo sapete, non devo dirlo io a voi, centinaia, migliaia, decine di migliaia di altre aziende in rete che spingono poi le nostre aziende campione a crescere sull'esterno. È chiaro che c'è molto di più da fare, è chiaro che quello che abbiamo fatto per far rinascere l'ICE, per esempio, deve essere accelerato. Il polo finanziario per finanziare meglio e di più con la SIMEST, la SACE e la Cassa Depositi e Prestiti, che oggi sono una realtà grossa, paragonabile alla struttura di altri paesi, deve essere ulteriormente spinta, rafforzata. È chiaro che il problema della dimensione e della forza patrimoniale è un problema ineludibile, quindi ancora più ACE, quindi ancora più reti di impresa, quindi ancora più ruolo per le grandi aziende, per le aziende più forti che si portano dietro tutte le altre. L'OCSE ci dice che abbiamo dietro l'angolo la possibilità di invertire il ciclo, che forse ce l'abbiamo veramente a portata di mano, che l'Italia non può perdere questa occasione, deve fare e deve continuare quello che sta facendo e che ha fatto, e deve fare di più. Ecco, qui mi attacco per poi rispondere alle domande giuste, concrete, vere di Boccia. Sul fatto che c'è dietro l'angolo questa possibilità, anche il rinnovato interesse di investitori internazionali che stanno diventando molto significativi anche come dimensioni ci porta a dire che questo è vero. Allora, che fare? Guardiamo avanti. Innanzitutto, lasciatemi dire, non perdiamoci per la strada tutto quello che è stato fatto. Tutto quello che è stato fatto e che c'è. Nel preparare il passaggio di consegne col mio successore, chiunque egli o ella sarà, abbiamo preparato quello che io non ho trovato quando sono arrivato 15 mesi fa, e c'è il lavoro fatto, molto sintetico, con tutti poi i dettagli, i documenti, e abbiamo deciso di metterlo anche a disposizione di tutti. Vai che sta arrivando. In modo tale che ci sia la possibilità per tutti di contribuire, criticando, aggiungendo, mettendoci quello che ci può essere al lavoro che c'è, perché di lavoro tutti insieme ne è stato fatto molto e quello va valorizzato e certamente non buttato via. Si chiama www.cantierecrescita e c'è la serie dei lavori su cui il contributo anche di ciascuno di voi può essere molto molto importante. E poi bisogna andare avanti per non perderci i sacrifici fatti anche dal Paese nel suo insieme. Lo diceva Boccia, ci siamo guadagnati i fondamentali di nuovo in ordine. Guardate che non sono tantissimi Paesi in Europa che possono dire che ormai la parte peggiore del lavoro è stato fatto, che i conti sono in ordine, che l'avanzo primario è assicurato, che quindi è sostenibile sia il deficit che il debito, sia l'apparato previdenziale. Sono pochi, questo è successo perché governo, Parlamento, parti sociali hanno, soprattutto per alcuni mesi all'inizio del mandato, saputo lavorare molto molto insieme. Quello che c'è da fare è di un altro ordine di grandezza, e ha fatto molto bene Confindustria a segnalare col suo programma che dobbiamo passare dalle centinaia di milioni alle centinaia di miliardi, che dobbiamo passare dal breve al medio-lungo periodo. Queste sono le caratteristiche dei progetti che poi fanno la differenza, e quindi questo approccio molto chiaro, molto trasparente, molto coraggioso, molto dimensionato, perché per modificare l'andamento di un paese bisogna metterci potenza di fuoco di quel genere, è molto apprezzabile. Ci vuole più Europa che non sta dimostrando fino in fondo di essere coerente con quello che dice, perché dice ok, abbiamo messo a posto la parte conti, la parte governance dell'economia, adesso dobbiamo spingere, però poi non seguono gli investimenti. Lo accennava prima, mi sembra anche Boccia, il budget, il piano dei prossimi anni taglia invece di aumentare gli investimenti, e quindi questo, insieme al Presidente del Parlamento europeo che si è fatto portavoce di questa attitudine, dobbiamo tutti insieme spingerlo per modificare. Dobbiamo fare in modo che ci siano anche investimenti con debito europeo su quelle che sono le infrastrutture di collegamento, di energia, di telecomunicazioni, per accelerare l'aumento di competitività del nostro continente. Come giustamente è stato menzionato, Giorgio Squinzi lo dice chiaramente, non è più la singola azienda, non è più il singolo paese, sono ormai le grandi aree del mondo, e l'Europa ha tutti i numeri per rimanere nel tempo la più ricca, il luogo di maggior benessere, il luogo di maggior libertà anche, oltre che tutto quello che ha raggiunto. Le domande specifiche di Boccia. Accennato al tema della liquidità delle aziende, al tema dei pagamenti, al tema di che cos'altro va fatto. All'inizio, quando ancora non avevamo la possibilità di uscire da taluni parametri europei, abbiamo iniziato col Fondo Centrale di Garanzia, quei famosi 20 miliardi di credito garantito, e probabilmente questo va ulteriormente aumentata come dotazione. Abbiamo iniziato con l'IVA per cassa, poi siamo riusciti, lavorandoci per molti mesi, ad arrivare all'impostazione della soluzione del problema dei pagamenti. Però su questo dobbiamo capire fino in fondo che cosa abbiamo fatto, perché sicuramente ci possono essere dei miglioramenti, ma a mio parere adesso nella versione ultima che è stata approvata c'è molto della soluzione che serviva. 40 miliardi messi a disposizione sono comunque una cifra molto importante, ma giustamente viene sollevato il tema delle procedure, dei tempi. Allora, se andate a vedere nel provvedimento, per quasi tutte le tipologie di pagamento sono identificate le date entro cui le amministrazioni locali o il Tesoro devono dare risposta e i tempi entro i quali le amministrazioni devono avvertire, annunciare, insomma comunicare alle imprese l'intenzione di pagamento e i tempi. Questo 40 miliardi copre già una quota rilevante dei debiti accumulati purtroppo negli ultimi 10 anni e messi sotto il tappeto per ridurre forse le statistiche del debito pubblico. Ma dentro nel decreto ci sono i meccanismi per coprire l'altra parte. È stata già citata l'aspetto della compensazione tra debiti e crediti, viene alzato da 5 a 700 mila euro la possibilità di compensare i debiti fiscali, viene allargata la possibilità di compensare con debiti fiscali non soltanto quelli a ruolo, ma anche quelli... Ecco, questa è la parte iniziale, chiaramente non possiamo far sentire tutto l'intervento, la parte in cui il Ministro Passera ricorda il decreto del Governo. Devo dire, adesso abbiamo il metro pubblicità e poi Luca Paolazzi ci racconterà invece i numeri reali e concreti. Devo dire, per carità, è sempre Ministro, un Passera abbastanza politico, a mio avviso. Si poteva anche dire qualcosa di più su quello che il governo non è riuscito a fare nella seconda metà del suo mandato, cioè è verissimo che i conti sono stati messi in ordine e soprattutto che vantiamo adesso un deficit migliore di quello francese, che non abbiamo sforato oltre il 3%, questo va riconosciuto al governo Monti, però va anche detto con estrema chiarezza che tutta la parte, diciamo, di rilancio dell'economia, così come anche di trattativa con l'Europa, di battere i pugni sul tavolo europeo, quella è mancata, è inutile girarci attorno. Su questo però vorrei sentire anche Luca Paolazzi, chiedo ancora 2 minuti di pazienza, il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. 17:42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dal Lingotto di Torino, dove stiamo trasmettendo in occasione della due giorni della piccola industria di Confindustria. Tempo scaduto, paese in macerie, durissime le frasi con cui le abbiamo ascoltate, in parte con cui ha aperto il suo intervento il presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia, e abbiamo sentito anche l'intervento del ministro Passera. Vedo molti commenti critici al 349-238-6666. Io, la mia opinione l'ho già detta, insomma, cioè, si poteva ricordare la parte buona del governo Monti, però anche visto che tanto Passera non si è candidato e non penso che si candiderà, ammettere che non si è riusciti a fare alcune cose e a battere i pugni in Europa. Vorrei su questo sentire un commento di Luca Paolazzi, poi però entriamo, in quanto direttore del Centro Studi Confindustria, poi entriamo invece sui numeri molto pesanti che ha presentato oggi, proprio qui un'ora fa, nel corso dell'inizio del convegno. Luca. Anzitutto vorrei ricordare che, come è stato detto da ministro Passera, il problema dell'Italia non solo da oggi non sono tanto i conti pubblici per sé, ma la mancanza di crescita. E la mancanza di crescita nasce da scelte sbagliate, non scelte piuttosto antiche. L'avevamo ricordato anche l'anno scorso nel convegno del Centro Studi Confindustria, del biennale del Centro Studi Confindustria: la lenta crescita è una malattia che affonda le sue radici tra la fine degli anni 60 e inizio degli anni 70. L'abbiamo nascosta nell'atto debito pubblico, nella svalutazione competitive, inflazione e quant'altro. Il risanamento dei conti pubblici è stata un'opera che è cominciata in realtà con il ministro Tommaso Padoa-Schioppa del governo Prodi, proseguita con il ministro Tremonti del governo Berlusconi. Se guardiamo semplicemente le manovre varate dal governo Berlusconi, sono state circa 70 miliardi a valere sul 2013, Monti ci ha calato sopra altri 20 miliardi che erano quelli che mancavano a chiudere, e l'impegno che il governo Berlusconi aveva preso di pareggiare i conti quest'anno con l'Europa. Il problema però nostro è rilanciare la crescita, è per questo che Confindustria dice fondamentalmente che non basta quello che è stato fatto, che occorre, diciamo, guardare ad altri obiettivi, occorre guardare al rilancio della crescita economica, che è quello che ci manca, e per farlo non c'è bisogno di spostare 10 milioni qui, 10 milioni là, bisogna fare una manovra consistente cambiamento della composizione della spesa e delle entrate pubbliche. E poi arriveremo anche a questa, perché voi come Confindustria avete proposto, vado a memoria, 6 mesi fa circa, però potrei sbagliarmi, un gennaio scorso, quindi il tempo vola, un anno e passa fa, un piano di azione che permetteva, poi arriveremo anche alle cifre complessive, di smuovere decine e decine di miliardi di euro. Però vorrei restare per un attimo sulla tua relazione, Luca, perché dei grafici bellissimi, bellissimi nella loro tragicità, che tu hai mostrato, la cosa che ho trovato più interessante è che tu sei partito a analizzare le recessioni della storia dell'Unità d'Italia, diciamolo così. E quindi, ed emerge in maniera abbastanza palese che, se guardiamo la recessione del 1913-1921, quella ben più famosa del 1929-1937, sono tutte a pila, a dati costanti, quindi deflazionate, sono tutte meno gravi di quella che stiamo attraversando, cioè 2007-2013. Io non posso mostrare il grafico, ma insomma si parte da un livello 100 quando inizia la recessione, e questa è più grave non solo come caduta, ma, se ho ben capito, ma vorrei una conferma, per il suo protrarsi. Esattamente, questo è il punto fondamentale. In questo grafico manca, diciamo, un'altra grave crisi, che ovviamente è quella scatenata dalla Seconda Guerra Mondiale. L'IP si ridusse addirittura del 40%, però nell'arco di 10 anni, se prendiamo 40 e 50, ci fu poi la ricostruzione, e più che recuperammo tutto quel terreno perso. Per fortuna non c'è una guerra in corso, quindi per fortuna le persone, diciamo, continuano a fare una vita difficile, faticosa, ma non ci sono i milioni di morti, feriti. come ha detto presidente, vicepresidente Boccia, presidente della piccola industria e Confindustria, però come se fosse un'economia di guerra. Noi bisogna ricordare, all'inizio degli anni 90, quando si parlava di una flessione del PIL dello 0,2%, ci strappavamo i capelli. Adesso constatiamo un calo dell'8% in 5 anni e dobbiamo tenere conto, è un dato enorme, non è una cifra piccola. È vero, e passa quasi in cavalleria il fatto che quest'anno dovevamo fare invariato meno 0,5, poi meno 1, mo siamo già al meno 1,3%, ma ormai ci stiamo abituando al meno 1, meno 1,3. Hai ragione a ricordare che negli anni 90 bastava un meno 0,2, meno 0,3 per parlare di recessione, l'economia è ferma, così. Noi ci metteremo la firma adesso per fare un 2013, cosa che non capiterà, con un meno 0,2%. I dati che tu hai diffuso mostrano un paese che tra il 2007 e il 2013 ha visto il PIL scendere dell'8,3%, cioè siamo tornati a un PIL in valore che è quello del 2000. Ma attenzione, il PIL per abitante fa meno 10%, vicino ai valori del 1997, la produzione industriale mediamente fa meno 25% in questi anni rispetto all'inizio della crisi, 70.000 imprese manifatturiere hanno chiuso i battenti, sono, abbiamo fatto il calcolo anche noi, 46-47 imprese al giorno con gli ultimi dati dell'ultimo trimestre, e dico sempre per far capire che da quando inizia questo programma a quando finisce questo programma, se si levano le ore notturne, che non le contempliamo, chiudono, hanno già chiuso 3 imprese, e ripeto, non per colpa nostra, ma sono i dati alla mano, per dare il livello impressionante di chiusura delle attività. Dopo il traffico, vale la pena ricordare che cosa avete proposto, quindi qual è il tavolo su cui Confindustria si confronterà domani, e anche la proposta su cui Confindustria domani si rivolgerà ai sindacati, visto che ormai è chiaro, lo ha detto ieri il presidente Squinzi, che si cercherà un percorso comune con le parti sindacali. La coesione che si chiede alla forza politica, ha detto Squinzi, la vogliamo dimostrare e mettere in pratica anche noi come parti sociali. Il traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, mentre sta ancora parlando, lo dico sorridendo, il ministro Passera, perché in realtà il suo intervento non era previsto, è stato un fuori programma. In realtà però ha assunto, lo dico con massimo rispetto, la forma, i toni e anche i contenuti di un classico intervento di un ministro a conclusione di un convegno di questa importanza. Spero che gli organizzatori fossero d'accordo, immagino di sì. Devono essere dei saluti, sono dei saluti molto, molto, molto lunghi, molto estesi, perché sta ancora parlando, ormai sono passati quanti? 25 minuti, mi sembra di poter dire tranquillamente. Allora, Luca Palazzi, lo scorso gennaio, non gennaio di un anno e mezzo fa, è vero che un po' sono l'età si sente, ma non sono così rin qualcosa, voi avete presentato un piano di azione che può essere più o meno condivisibile, perché per esempio porta un aumento dell'IVA, sappiamo che il mondo del commercio, dell'artigianato ha storto parecchio il naso, per cui non dico che sia la ricetta per tutti i mali, anche perché sarebbe troppo parziale da parte mia, però possiamo ricordarlo come punti, mentre vedo che molti di voi vogliono i grafici di Luca Palazzi sulla nostra pagina di Facebook. Sì, dateci il tempo di rientrare si a Milano. Anche sul sito di Confindustria. Esatto, allora facciamo un po' di pubblicità, li troverete sul sito di Radio 24, ma sono già caricati sul sito di Confindustria, vi assicuro, sono molto belli, anche perché è impressionante, ne cito solo un altro e poi ti lascio parlare. Tu hai messo le variazioni percentuali del PIL dal 1860 al 2020 come proiezione. Ora, chi sta guidando magari usi una mano sola per qualche istante, ma questo decennio, cioè il decennio 2010-2020, è in assoluto il peggior decennio da quando esiste l'Unità d'Italia, nel senso che il PIL è in media andrà a meno qualcosa, meno 0,5 forse, Luca, vedo l'istogramma. Un decennio così brutto si ritrova solo dal 1910 al 1920, ci fu una guerra di mezzo, ricordo. Perfino il 29-30 o il 1930-1940 andarono bene, perché mediamente la crescita fu dell'1,5% e del 2%, per non parliamo degli anni 60 in cui il PIL cresceva del 6% in media, così come dal 60-70, ma anche chi si ricorda il periodo difficile del 92 e la lira che esce dallo SME, Tangentopoli e quant'altro, dal 1990 al 2000 comunque la nostra economia è cresciuta di 1,5% percentuale. 2000-2010 pochino più 0,5, 2010-2020, secondo le tue proiezioni, addirittura negativa. Non c'è mai stato un decennio così. Lo dico così, magari se qualche politico ascolta la pianta di pensare che il paese tutto sommato sopravvive con i risparmi degli italiani. Le vostre proposte, Luca? Ma le proposte sono, come ho detto prima, di cambiare composizione della spesa e delle entrate pubbliche, dal lato della spinta all'economia per una terapia d'urto che mobilita complessivamente 316 miliardi nell'arco di 5 anni, si parte appunto con rilanciare la competitività, in particolare del settore manifatturiero, tagliando gli oneri sociali, non le retribuzioni, gli oneri sociali, e eliminando gradualmente l'IRAP, il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, rilanciando investimenti pubblici e privati. E questo è il lato della spinta. Ovviamente bisogna ritrovare risorse, come hai ricordato tu prima, le troviamo anche in un aumento delle aliquote basse dell'IVA, però è compreso nel progetto di ridurre fortemente l'IRPEF per le famiglie più disagiate, e questo più che compensa nella spinta ai consumi quell'aumento dell'IVA. Quindi è nell'insieme una manovra complessa, decisa, chiara, e gli effetti ci sono, perché abbiamo un aumento della crescita economica che arriva al 3% nel 2017-2018, un risanamento dei conti pubblici appunto in quella logica che dicevo prima, dove ripartendo dalla crescita anche poi i conti pubblici, debito pubblico, deficit pubblici migliorano molto più di quello che peraltro ci è chiesto dall'Unione Europea. Perché un rapporto deficit-PIL, se il PIL migliora chiaramente in automatico migliora anche il rapporto complessivo. Grazie Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, IGR. Poi torniamo in diretta qui da Torino. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, in cui chiusi per ora i temi che riguardano le nostre imprese. Ripeto, chi volesse vedere i grafici di Luca Paolazzi può andare tranquillamente sul sito di Confindustria, sono impressionanti, lo dico in senso negativo. C'è un ascoltatore che scrive: ma insomma ormai il programma è deprimente, porta sfiga. Guardi, facciamo una cosa, io cosa vuole che li racconti? Che faccia un programma comico? Quando chiudono 47 imprese al giorno, tutti i giorni, e quando ne chiudono praticamente 3 solo nella durata di questo programma, noi non possiamo raccontare un'Italia che non esiste. A me dispiace se lei si intristisce, io mi intristisco più che per il programma, per le imprese che chiudono, ma poi ognuno si intristisce per le cose che vuole. Adesso però parliamo di borsa e poi ci spostiamo a Cipro, dove ci sono novità. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Dopo una settimana di rialzi consistenti, oggi ci stanno un po' di realizzi, meno 1,5% per Milano, devo dire assolutamente in linea con il resto Europa, meno 1,30 Parigi, meno 1,50% anche Francoforte. L'America perde lo 0,20% in questo momento. C'è un caso su tutti però che si chiama Telecom Italia, più 3,76%, è arrivata a guadagnare anche il 5% dopo il via libera alle trattative. Franco Bernabé con altri tre saggi, vale molto di moda la parola, con tre esponenti dell'azionista di maggioranza relativa, che è Telco, e anche l'ipotesi che si possa separare la rete. È chiaro che intanto Telco non avrebbe mai venduta o non avrebbe mai un azionista di maggioranza cinese come Hutchison un po' con la rete dentro, dovrebbe essere scorporata. C'è chi però storce il naso dicendo: in questo modo perderemo il patrimonio di risorse. Io ricordo che Telecom Italia negli anni, a metà anni 90, era il numero uno in Europa, la TIM, come telefonia mobile, ed uno dei migliori e dei più bei gruppi di telefonia a livello europeo. Ricorderete Gamberale, le carte prepagate, fummo i primi a inventarle, e poi per vari motivi che adesso non possiamo raccontare, avevamo la numero uno che era TIM mobile, e la numero 3 che era Omnitel. Poi Omnitel fu venduta a Vodafone e abbiamo perso posizione nel frattempo. Ripeto, i rilievi sono sull'opportunità strategica che un paese ceda il controllo della sua compagnia di telecomunicazioni, anche perché questo può dire appunto ricerca, occupazione, investimenti, know-how, oltre che le controllata, in primo luogo quella brasiliana, che sono dei piccoli gioiellini. Comunque, ciao Condi, nella Radio Corriere Sole 24 Ore, più 3,76% anche oggi Telecom, arrivata a guadagnare il 5%, la borsa ci crede? Sì, assolutamente sì, buonasera a tutti intanto. Diciamo ci crede, sicuramente ritiene che questa operazione possa comunque riservare delle evoluzioni interessanti. Poi dire oggi se potrà essere portata a termine o meno, sicuramente non è possibile dirlo con certezza. Di fatto comunque c'è sempre quel numero, 1,2 euro, cioè quanto Hutchison Wang Poa e il magnate Li Ka-shing sono disposti a sborsare per rilevare le azioni di Telecom Italia in carico ai soci Telecom, valore che è praticamente il doppio rispetto a quello di borsa, ed è chiaro che di fronte a valutazioni di questo tipo il mercato si muova di conseguenza. E poi invece la vicenda A2A, i dati li ha diffusi A2A circa un mese fa, da allora il titolo ha fatto un più 30%. Sì, oltre 30%. Oggi un più 2,30%. Calcolavo prima il 38%, è sicuramente una performance importante. Diciamo che l'andamento di A2A ricorda anche un po' anche quello di Iren, sono due società che si assomigliano molto, sono due utility ex municipalizzate, molto indebitate, da un anno e mezzo a questa parte hanno imboccato un percorso molto chiaro, pochi dividendi agli azionisti, un focus sulla generazione di cassa, sulla riduzione del debito, e devo dire che in borsa poi gli operatori apprezzano, perché A2A dai minimi dell'anno scorso ha di fatto raddoppiato quasi il valore, Iren l'ha addirittura triplicato. Ieri Iren ha dato i dati di bilancio, anche questi molto buoni, e il titolo ha festeggiato con un importante rialzo. Ancora un altro titolo che molto ha guadagnato nella settimana, oggi ha chiuso con un calo, però commentiamo anche la settimana, Mediolanum ha perso l'1,70% oggi, ma ha guadagnato oltre il 10% in una settimana dopo i dati sulla raccolta, no? Sì, un 10% buono, oggi era sulla parità all'incirca verso le 4 del pomeriggio, poi che il leggero ampliamento dello spread e i realizzi sui finanziari l'hanno portata al ribasso. Nei primi tre mesi Mediolanum come Azimut ha messo a segno una raccolta netta importante, nel caso di Mediolanum praticamente 1 miliardo di euro, e sicuramente un dato che è stato apprezzato dagli operatori. Realizzi su Mediaset, ieri ha fatto l'8%, oggi meno 4,86% dopo le indiscrezioni sulla pace che raccontavamo anche ieri tra Rupert Murdoch e Silvio Berlusconi, la pace Sky Mediaset. Banco Popolare meno 3,80 come UbiBanca, il 3,60 lo ha perso invece Fiat, il 3,20 Tenaris, il 2,90 Pirelli, il 2,80 il calo di Finmeccanica, il 2,70 quello di STMicroelectronics, il 2,5 quello di Exor, Monte dei Paschi meno 2,40, Saipem meno 2,30 come Buzzi Unicem, Popolare di Milano meno 2,1 come Unicredit. Vorrei citare Fiat e poi anche Monte dei Paschi e Unicredit. Su Fiat sicuramente ci sono sia dei realizzi, perché Fiat ha guadagnato molto nelle ultime sedute, sia pesa l'andamento molto penalizzante del settore europeo dell'auto in borsa. Oggi a Parigi, a Francoforte abbiamo visto diversi titoli delle quattro ruote che hanno perso parecchio terreno, e anche Fiat dunque meno 3,6%. Per quanto riguarda Unicredit è finito il buyback sulle obbligazioni, un buyback che ha dato ottimi risultati in termini di margini, ma oggi Unicredit sicuramente paga l'andamento del settore bancario a Piazza Affari. Lo stesso vale per il Monte dei Paschi, che c'è del 2,4%, era un titolo che comunque a inizio seduta si era difeso sempre sull'effetto spread. È da citare, c'è anche Pirelli che c'è del 2,9%, nei giorni scorsi Pirelli ha ufficializzato lo spostamento del piano industriale, del nuovo piano industriale, da maggio a novembre. È sicuramente una circostanza che ha un po' disturbato i mercati, e infatti da nelle ultime 4-5 sedute Pirelli ha perso il 10%. Migliori e peggiori in assoluto: Banca Popolare di Spoleto più 6%, Fondiaria Sai più 4,90%, Indesit più 4,20%, e poi Brunello Cucinelli più 3,25%. Chi perde invece? Seat Pagine Gialle sul risparmio meno 33%. Ci sono novità e meno 5% sull'ordinario, ma il titolo sappiamo che assolutamente illiquido. È appunto illiquido, basta, dico come battuta, un euro per muoverlo. Banco Santander meno 5,47% e Mediaset l'abbiamo raccontata. Buon fine settimana a te, ciao a tutti i colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore. Dopo le informazioni sul traffico ci occuperemo di nuovo di Cipro, perché è arrivato un altro allarme da Cipro. Chiederemo all'Unione Europea un aiuto supplementare, ma risponde l'Europa: il mitico Heron Dijsselbloem, quello Bloem, me ne frega un cavolo di come si pronunci, quello che disse che il modello delle banche del prelievo forzoso su Cipro poteva essere applicato anche alle altre banche europee in difficoltà, beccandosi la bacchettata sulle mani da parte di Mario Draghi. Dijsselbloem ha detto: sono tempi duri per Cipro, ha davanti dei tempi molto duri, ma il piano non cambia. Confermato che il piano non cambia anche dal commissario europeo Olli Rehn. Perché Cipro non chiederebbe più soldi ma assistenza tecnica. Poi ne parleremo però anche della nostra Cipro, possiamo dirla così, cioè degli sprechi dei nostri enti locali e di quanto la crisi morde. Una notizia ve la do prima di lanciare il traffico: 1700 persone a febbraio si sono presentate per partecipare alla selezione di candidati per un posto di Netturbino nei comuni di Venezia, Jesolo e Portogruaro. Giovani in cerca di prima occupazione, qualche laureato e anche alcuni over 40. Dei 1700 ne sono rimasti in 400 che attendono di capire se entreranno nella graduatoria e in che posizione. No, questo per rispondere a chi dice gli italiani non vogliono fare i lavori meno glamour, meno così sofisticati. Non è vero, a giudicare dai 1700 italiani che si sono messi in fila per un posto nel Turbino. Traffico. Minuti, ultima parte di Focus Economia. Temo di aver bisogno di un Rino Gaetano adesso, prima di passare a Cipro, perché poi ognuno deve farsi anche le analisi in casa sua, e noi da mesi, da un anno almeno, continuiamo a raccontare gli sprechi che troviamo, di cui leggiamo in giro, della nostra pubblica amministrazione, del nostro Stato, delle nostre regioni, comuni, enti locali. Dai, Rino Gaetano. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, come si fanno a sprecare in consulenze 2 miliardi di euro? Beh, vediamo se riusciamo a spiegarvelo nel dettaglio. A Torino, il comune dove siamo ospiti oggi, a Torino, il comune ha rinnovato per 2 anni un incarico da 19.828 euro a un consulente dedicato al benessere degli animali. Ma qual è? Cioè, sì, io capisco il benessere degli animali, è importante, ma con questi problemi mi occuperei anche del benessere degli umani, a maggior ragione a Torino, dove la crisi morde tutto l'indotto che lavorava prima con la Fiat, boh. Eppure ci occupiamo del benessere degli animali. A Cancellara, in provincia di Potenza, si preoccupano del benessere dei cittadini, ma siccome sono ecumenici, sia quelli vivi che quelli morti. Perché l'amministrazione ha scelto di destinare 22.500 euro al collaudo statico dei loculi del cimitero. Ma il collaudo statico dei loculi del cimitero, io capisco tutto, ma 22.500 euro un comune è tanta roba per il comune di Cancellara. Non c'era, non so, un asilo? Anche perché prima che muoiano magari occupiamoci anche dei bambini, così giusto per dare delle priorità, con il massimo rispetto per i morti. E poi i morti non votano, lo dico anche al sindaco. A Crotone, la provincia ha arruolato due persone come inseritori di dati esterni per inseguire l'efficienza. Poi ci sono 456.556 consulenti complessivamente in questo paese, mezzo milione di consulenti, che costano ogni anno 2 miliardi di euro. Ripeto, c'è di tutto. C'è un consulente che da 20 anni siede al fianco dei ministri, nel 2011 ha strappato l'ennesimo contratto da 170.000 euro. C'è l'ex soubrette chiamata dalla difesa a lavorare sulla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Si capisce perché. L'esperto di tartufi e lo studioso delle abitudini riproduttive dei cormorani. Ma adesso che cavolo di abitudini riproduttive hanno i cormorani? Non sto scherzando, eh? Le abitudini riproduttive dei cormorani. E poi il comune di Potenza affida una consulenza tecnica da quasi 30.000 euro per verificare la correttezza delle fatture di Telecom Italia. Ma non può chiamare Telecom e controllare con Telecom, no. E il Friuli Venezia Giulia, famoso per gli avvistatori di neve, qualcuno se li ricorda gli avvistatori di neve un anno fa? Beh, continua, eh? La regione ha destinato altri 26.300 euro per affidare ad una persona il compito di verificare se nevica e quando nevica. Cioè, questo apre la porta, guarda fuori, richiude, dice nevica oppure non nevica, 30.000 euro e vai così. Questo è uno dei migliori, è sempre la classifica dei migliori lavori al mondo, la Ferrari, the best place for to work. Questo secondo me è uno dei migliori lavori al mondo, altro che quello che fa il bagnino in un'isola dei tropici. Uno apre la finestra in pigiama, nevica, anzi guarda fuori, perché deve aprire, guarda la finestra. La regione Friuli Venezia Giulia ha speso 10.000 euro per salvare le biblioteche nel deserto della Mauritania. E vabbè, questo è un atto di solidarietà internazionale visto quello che era successo con le popolazioni Tuareg. In Liguria Matteo Rosso, capogruppo del PDL all'opposizione, ha denunciato che la giunta avrebbe pagato 10.000 euro per uno studio, allora 10.000 euro per uno studio sul mezzo idoneo a meccanizzare alcune fasi produttive dell'aglio di Vessalico. Ma che cavolo è l'aglio di Vessalico? Ma chi è? Dracula? Chi l'avete dato i 10.000 euro? Per studiare un mezzo idoneo a meccanizzare alcune fasi produttive dell'aglio di Vessalico. Il conte Vlad ringrazia. In 3 anni il Piemonte ha speso 6 milioni e 600 mila euro per le consulenze, con una media di incarico di 40 mila euro. La regione Piemonte ha stanziato 18 mila euro per la valorizzazione delle collezioni di invertebrati. Ma io gli invertebrati che conosco stanno spesso in un posto, però molluschi e insetti esclusi, molluschi e insetti esclusi. 30 mila euro per la conservazione delle collezioni botaniche. 140.000 euro sono andati all'Università di Torino per redigere il progetto sulla definizione dei valori di resistenza a flessione del legname massiccio per uso strutturale di larice e castagno piemontese. 140.000 euro per studiare i valori di resistenza a flessione del legname massiccio per uso strutturale di larice e castagno piemontese. Comunque, la palma della sincerità va a Pontina, città laziale. Chiaramente, negli ultimi 2 mesi del 2011... il comune ha affidato a un architetto un incarico da 8.100 euro con una motivazione incredibile. Alla voce descrizione dell'incarico è scritto semplicemente: mancanza di personale nell'ente. Fine. Perché lo vuoi? Perché manca il personale? Un applauso agli avvistatori di neve, che secondo me restano al top della nostra lista. Gli avvistatori di neve in Friuli Venezia Giulia e ai soldi spesi dalla regione Liguria, i 10.000 euro per meccanizzare alcune fasi produttive dell'aglio di Vessalico. Vittorio Darold, buonasera. Buonasera a voi. L'uomo cipriota ormai, dove non studiano l'aglio di Vessalico, però hanno chiesto all'Europa più aiuti. L'Europa ha risposto no secco, Dijsselbloem, il piano non cambia, le cifre, ha risposto anche l'Iren, commissario europeo degli aiuti a Cipro, non cambiano, l'Unione Europea darà 9 miliardi di euro, il Fondo Monetario un miliardo. Di che cosa ha bisogno e che cosa ha chiesto Cipro? Ma allora, qui la cosa si fa sempre come al solito buffa, se non appunto drammatica. Si sono accorti che appunto gli mancano questi 5 miliardi. Allora, dato che non vogliono chiederli in maniera tradizionale perché i tedeschi si oppongono, hanno chiesto di darle in altre forme, le più varie, come non so, pagamento dei fondi strutturali, dando quindi nuovi soldi, ma attraverso un meccanismo che non vada a incidere come se fosse un prestito. Quindi il meccanismo è sempre il solito, si fa un salvataggio e poi ci si accorge che mancano dei soldi, non era come si pensava, e i tedeschi si oppongono soprattutto appunto in vista delle elezioni della Merkel e quindi dicono trovateli voi, loro li hanno trovati in qualche modo, ma gli mancano ancora 5 miliardi e quindi non possono fare altre austerity, non possono chiedere altri soldi ai depositanti perché hanno già bloccato tutti i depositi delle banche, ancora tutti i controlli sono ancora lì, e a questo punto chiedono in maniera fantasiosa all'Europa di dare dei soldi attraverso dei fondi strutturali. Ecco, ma visto che l'Europa sembra ampiamente orientata verso un no, questo cosa potrebbe comportare? Abbiamo ancora un minuto, Vittorio, per Cipro, perché io ho un déjà vu con la Grecia, eppure con la Grecia si è partiti così, prego. Sì, esattamente, cioè abbiamo ancora una volta l'avvitamento, cioè non si riesce a dare subito i soldi che necessitano e a stabilizzare la situazione finanziaria per questioni politiche e a quel punto per pochi soldi rispetto alla gravità di quello che si combina si va appunto a cercare altre soluzioni che sono sempre un po' abborracciate. In questo caso dopo appena poche settimane si è già detto guardate il conto è sbagliato, ce ne vogliono altri 5, questo rimette tutto in discussione, i mercati oggi sono andati naturalmente in fibrillazione di fronte a questo evento che era del tutto inaspettato, quindi vuol dire che si riapre il discorso in Grecia, come vi ricorderete da poche decine di miliardi, se si fosse intervenuto subito siamo arrivati a 173 miliardi di euro conto finale di tutta l'operazione. Sì, io ormai non so più come raccontarla, in tutti i modi l'abbiamo raccontata della miopia europea e del centro-nord Europa. Se avessimo salvato la Grecia subito ci sarebbe costato un decimo. Comunque, speriamo che la cosa non si riproponga anche per Cipro, anche se vedo un percorso molto molto analogo, perché poi se il paese si avvita è chiaro che non ti può ripagare. Io auguro a Vittorio Darold, ma anche a Pietro Lacorte che ci ha assistito oggi qui in regia, a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi che come sempre questa settimana mi hanno assistito in redazione un buon fine settimana, ma lo auguro anche agli avvistatori di neve friulani, lo auguro anche a chi collauda la statica dei cimiteri a Cancellara, lo auguro anche a chi sta sviluppando un mezzo idoneo a meccanizzare alcune fasi produttive dell'aglio di Vessalico in Liguria, e poi chi studia la resistenza del legname a Torino e soprattutto chi sta valorizzando la collezione di invertebrati, intesi come invertebrati veri, non come definizione, tranne i molluschi e gli insetti, a Torino. Un buon fine settimana anche a tutti voi, noi invertebrati, vertebrati, molluschi, insetti, ci risentiamo da lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione. Si sente.